Buongiorno piccola stella, ciao. Il sole illumina gli occhi tuoi. Tu sei la donna dei sogni miei. Che bella che sei. Ti guardo e penso all'immensità e quel colore che sfumerà di un azzurro brillante che il mio cielo sarà. E questa storia con te è un lungo viaggio da vivere. Vivo nei sogni di questi giorni all'unisono con te. Questi momenti passano lenti, sorvolando la realtà. Dammi la mano. Sarà. Se solo penso all'intensità del viaggio tra i sentimenti tuoi, per sempre in pugno li stringerei, per questo vivrei. E questa storia con te è un lungo viaggio da vivere. Dolcemente ti bacio la mano, lo sai che ti amo.